Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Oh, che bello iniziare una nuova settimana con i funamboli alle 9:07 minuti. Cara Veronica, buongiorno, eccoci qui. È lunedì. No, dai, non essere. È il secondo lunedì di ottobre. Non essere così. E allora che succede? Ti sembra che ci sia qualcosa da essere allegri? Ma molto! Qua raccontiamo i funamboli, l'Italia di persone che camminano sul filo. Io volevo rassicurare tutti coloro che si sono alzati stamattina pensando di darsi una pistolettata o di prendersi acchiodate perché? Sulle dita, che è tutto ok, nel senso che è assolutamente nel trend umorale autunnale, no? In questo secondo lunedì di ottobre è giusto. Ma che fai allora il 15 novembre, tu, quando qua a Milano inizia a sorgere il sole alle 9:15? Attenzione, 15 novembre ci avviciniamo al 13 dicembre, giornata di Santa Lucia, e sì, che da lì è tutto in ripresa, poi capito? Lì è un attimo, è estate, adesso è proprio quell'impasse. C'è il foliage, c'è l'autunno. Infatti ho visto, guardandoti dal monitor che ho davanti, che il tuo ciuffo ha avuto un crollo vertiginoso e da come è spiaccicato sulla fronte il ciuffo si capisce il calo che c'è stato proprio. Figurati. Gli ascoltatori possono guardarlo tutti, questo ciuffo in radio si vede molto bene, però era per spingerli a guardare la diretta Facebook affinché possano ricrearsi. Alle 9:08 minuti diamo i numeri in tutti i sensi. 800 24 00 24, questo per chiamarci, oppure per Veronica, il numero degli SMS o 349 WhatsApp. O WhatsApp, pardon, 349 238 6666. Esatto, anche gli audio WhatsApp, anzi soprattutto gli audio, perché noi così vi mandiamo in onda, diteci cosa pensate dei temi che affrontiamo. Sì, anche del vostro buon umore di oggi siamo contenti di sapere, se volete condividere un po' di psicoterapia di gruppo, noi siamo qui. Allora, vi anticipiamo che alle 10:20 parleremo dell'apertura del Sole 24 Ore, la mappa dei reati. Oggi c'è una grande mappa provincia per provincia sui reati e le denunce. Sai, Veronica, che ci sono 284 reati commessi e denunciati ogni ora, quindi fai 284 per 24, tu che sei le tabelline. Sarebbe 568 reati, no? No, per 24, scusa, per 2, stavo pensando nel... No, sai qual era il calcolo? Stavo pensando alle due ore dei funamboli. Bocciata in matematica. Quant'era per 24? Aspetta. 284 per 24, mi stanno lavorando, dalla regia. Sì, adesso mi tolgono la 6.816 al giorno, 6.816 al giorno. Per e mi hanno anche tolto la bottiglia di Tavernello nel frattempo. Per la verità, non spaventatevi, i reati sono in calo, però lo vedremo, provincia per provincia. Milano è la città con più delitti totali, Milano davanti a Rimini. Più che la città, la provincia, sono classifiche per provincia. Ma c'era un altro dato che mi colpiva, il fatto che c'è un'innovazione anche nei reati, perché mentre c'è un calo appunto dei reati classici che conosciamo da sempre, delitti, scippi, rapine, c'è un incremento di quelli che sono i reati tecnologici, come per esempio le frodi in rete. E vuoi sapere qual è la provincia più colpita? Truffe, frodi informatiche, Trieste. Penso un po', davanti a Savona e Imperia. Mentre per le rapine Napoli, Milano, Caserta, per i furti Rimini, Milano, Bologna. Ma dov'è Roma? Dov'è Roma, vuoi sapere? No, ho capito. Roma sta più o meno al centro dell'Italia. Allora, si raggiunge circa tra Firenze e Napoli, si può raggiungere, ci sono diverse autostrade, ma c'è un detto che dice tutte le strade portano a Roma, quindi comunque più o meno la trovi a un certo punto. Comunque no, a Roma non ci sono delitti, ti volevo dire, per questo che non la trovi. Sì, certo, vi daremo la classifica e scriveteci, chiamateci, vi diremo provincia per provincia, città per città, se volete sapere da dove ci chiamate vi terremo informati. Però, cara Veronica, a proposito di reati, vogliamo partire da un altro tema, che è quello da cui partiamo. È un argomento che ci preme assai. Eh sì, via. L'argomento è molto serio. Non so se dici ti preme assai perché tu hai qualche stalker, qualche persecutore. No, grazie al cielo, no, non direi così. Però credo, insomma, che per le donne in particolar modo sia un argomento sensibile, perché anche chi non ne ha avuti veri e propri in termini estremi si è trovata comunque a confrontarsi con persone che diventavano eccessive, invadenti, e finivano col scavallare rispetto a quello che è lo spazio della libertà di un individuo. Quindi è una tematica, secondo me, molto sensibile anche per chi non ne ha sofferto in termini di vera e propria persecuzione. Lo stalking. Tra l'altro volevamo partire salutando un avvocato, che è l'avvocato Piersandro Adorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Perché buongiorno. Nei giorni scorsi c'è stata questa notizia, per la verità non è la prima volta che succede, ma ha colpito perché lei difende una persona che è stata condannata per stalking denunciata ecco, per stalking. Esatto. Denunciata per stalking e ha potuto usufruire di cosiddetta giustizia riparativa, nel senso che ha offerto quanto 1500 euro alla persona che l'ha denunciata, 1500 euro, e il giudice ha accettato questa riparazione. La donna invece che l'ha denunciata no. Avvocato, però questo caso è stato dirimente, perché da quanto leggiamo pare che ci sia una modifica in atto della legge, perché finora era consentito appunto il fatto che attraverso una cifra di denaro si potesse riparare al reato, la cosiddetta giustizia riparativa, mentre leggo che tramite l'intervento della Presidente della Commissione Giustizia Ferranti e tramite il Ministro della Giustizia si è deciso di togliere lo stalking dai reati che possono essere compensati da un punto di vista economico. Ho visto anch'io notizia di qualche giorno fa. Era appena stata introdotta una norma con la legge di agosto. Sì, era stata introdotta ad agosto, già molto contestata allora, perché giustamente l'avvocato dice la politica farà il suo corso, però dal punto di vista della vicenda del suo assistito, lei trova giusto riparare con 1500 euro una denuncia di stalking? Allora, ha risposto questa giustizia riparativa, in realtà ha risposto alle richieste del mio assistito, che erano quelle di chiedere, ripeto, scusa alla persona offesa, di avere di cercare di far capire che assolutamente gli intenti non erano persecutori, gli intenti erano di tutt'altra natura e tutt'altro genere, tant'è che è stata valutata proprio sulla base della lieve condotta, sebbene fastidiosa, sia stata percepita come fastidiosa dalla persona offesa, però in realtà senza il men che minimo pericolo, la men che minima pericolosità, sostanzialmente. Sì. Forse è stato intercettato in tempo, non so. Ma non è che sia stato intercettato in tempo, è che proprio gli intenti erano tutt'altro che quelli di persecutori. Però, avvocato, io mi pongo un quesito. Lei dice che non è un intento persecutorio, ma se io mi metto a seguire una persona con la macchina, qualunque spostamento essa faccia, in qualunque momento del giorno, anche quando è accompagnata dal compagno, qual è il risultato che ottengo nell'emotività della persona che è perseguitata? Lei dice, non usiamo questa espressione, io non saprei trovarne un'altra, cioè a livello di ansia, di angoscia, di sensazione, che cosa provoco? Ma sicuramente, infatti, quando ha capito e probabilmente quando è stato fermato ha percepito la reale portata della condotta che aveva posto in essere, allora ha da subito chiesto scusa, ha da subito detto ma no, non volevo creare uno stato d'ansia, volevo avere l'opportunità di conoscere questa ragazza. E quindi che ne pensa di tutte le polemiche? E ci sono state appunto le polemiche politiche a cui c'era riferimento Veronica Gentili. No, ma anche a dire che 1500 euro sottolineano quasi anche un disprezzo nei confronti della donna. Cioè a dire una cifra così. Vorrei sottolineare che tutto è stato rapportato alla reale entità della condotta, ma anche alle reali condizioni economiche del mio assistito, che si tratta di un operaio a tempo determinato addirittura, quindi non disponeva di una capacità economica rilevante. Per lui 1500 euro sono un grande sforzo economico. Ma infatti, avvocato, mi dica se lei conviene che più che la cifra in sé, forse c'è anche un paradosso proprio nell'idea che si possa monetizzare il livello di ansia, preoccupazione, come dicevamo, che si provoca in un soggetto. Questo esulando dal caso del suo assistito nello specifico. C'è un po' un paradosso in una legge del genere, no? Sì, questo può essere visto come un paradosso, però c'è anche da dire che la norma si applica veramente ai casi più lievi e quelli perseguibili a querela di parte. Quindi non stiamo parlando, non vorrei che da questo caso... Sì. C'è la linea telefonica, c'è la linea telefonica che non ci assiste, intanto che la recuperiamo. Vogliamo però salutare una persona che è un europarlamentare che secondo me sta ascoltando con grande attenzione questa vicenda, perché è stata vittima di stalking, non solo, ha denunciato e fatto arrestare una persona che l'ha proprio perseguitata. È Lara Comi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie. Lara. Tra l'altro, a me ha colpito una cosa, prima di parlare della vicenda, leggevo su un giornale, sulla cronaca regionale, perché questa persona che l'ha fatta arrestare sta a Lecco, in carcere, che riceve decine di lettere di ammiratori, di ammiratrici. Il primo caso in Italia, vede? Il primo caso in Italia dove una persona arrestata per stalking riceve lettere di fan. Io... vorrei conoscerle queste donne. Sì, anche io tantissimo. Esatto, siamo in due e vorrei tantissimo parlare a queste donne di quanto una ha sofferto per 9 mesi. Ci rispiega questo, cioè cosa faceva questo signore? Qual è stata tutta la storia? Perché veramente io l'ho letta e... Allora faccio una premessa, è una persona che io non conoscevo, quindi non era un ex, non era un fidanzato, nulla di che. Era una persona che avrò incontrato sicuramente in uno dei convegni e quindi non sapevo neanche identificarlo fisicamente e visivamente quando poi si incontrano tante persone. Ha iniziato con SMS, ha iniziato con chiamate. Io prima di denunciare ho detto stop, guarda, non è assolutamente il caso di continuare, se continui denuncio. L'ho detto una volta, l'ho detto due, alla terza ho denunciato, perché si è presentato anche sotto casa mia 2 volte, si è presentato ad altri convegni costantemente, avendolo nella platea mentre ti fissava, dovunque io andavo con appuntamenti politici seguiva, a tal punto che io per un periodo non ho più detto dove andavo pubblicamente, quindi è certo cambiato anche la mia attività lavorativa. Io d'altronde faccio questo lavoro per il momento e sì, quindi è anche giusto che si sappia dove sono. È vero che si è presentato, a un certo punto si è presentato addirittura con un anello che voleva consigliare. È la seconda volta che si presenta questo anello. Ma è peggio perché lui con l'anello è arrivato dopo che c'era stato già un provvedimento di allontanamento. Cioè è stato lì. Guardi, lui ha avuto 3 fermi da parte dei carabinieri, ha avuto un interrogatorio, ha avuto il provvedimento e nonostante questo non ha smesso. Non si è sentito, perché questo è quello che ha dichiarato, perché lui lo considera un corteggiamento. Allora, quando il corteggiamento è un atto persecutorio, non è corteggiamento. È come quando vediamo vittime uccise per amore, non si uccide per amore. Cioè, infatti una delle cose più insopportabili che ho letto tra appunto le ragazze che dicono che vogliono il suo numero e che parlano di un corteggiatore vecchio stile perché mandava i fiori o perché ha portato l'anello di diamante di una persona che in realtà perseguitava anche a Bruxelles. Cioè, il problema è che è una delle battaglie che sto portando avanti, che il provvedimento, qualsiasi segnalazione, avviene solo sul territorio italiano. Io per metà settimana vivo a Bruxelles e Strasburgo e lì non vale il provvedimento, cioè lui può avvicinarsi tranquillamente, può fare tutto quello che vuole. Beh, non adesso, che è in carcere, però io vorrei capire quasi anche sulla scarcerazione, quindi non è che io sia molto tranquilla. Il problema proprio di questo è quando esce, perché la notorietà che anche il suo avvocato gli ha dato in questa dinamica e la notorietà e la rabbia che può nascere per il fatto di essere stato in carcere E però questo è un punto fondamentale, Lara Comi, perché lei adesso sta parlando in qualche modo anche a tante donne, ma comunque a vittime di questo. Cioè si dice sempre denunciate, denunciate, denunciate, perché ci sono ora le leggi che tutelano. Però lei dice ora se dovesse uscire dal carcere chissà che rabbia può aver accumulato per questa vicenda. Allora questo è un po' un cortocircuito. Ci sono due problemi abbastanza importanti. Il primo è che io ho dovuto fare 8 denunce per avere un provvedimento. E in queste 8 denunce non fa riferimento a 8 eventi, ma in ogni denuncia è la storia raccontata giorno per giorno. Quindi si figuri che io il provvedimento l'ho avuto dopo 6 mesi. perciò la situazione era anche problematica. Il secondo aspetto è anche quello di rendere con l'aspetto economico la risoluzione di un problema. Cioè, secondo lei si può avere un prezzo discorso per la sofferenza di 9 mesi? È quello che chiedevamo all'avvocato Adorno, esattamente, che abbiamo infatti quello che dicevamo. Ma perché non lo vivono? Il problema è che anche il ministro Orlando, quando gli è stato detto, l'ha sottovalutato in pieno, perché non si può fare un aspetto economico. Non faccio una polemica politica, la faccio da un punto di vista di donna. No, è sacrosanto, perché il dubbio è veramente, cioè, è possibile monetizzare, cioè stabilire in denaro quanto sia valsa e quanto, con come si possa risarcire una sofferenza emotiva, psichica, un'angoscia che si vive costantemente. Non esiste, non ha prezzo. Mi scusi se ma adesso infatti lo richiediamo all'avvocato Adorno, ma vedete, finché arrivano messaggi come ne arrivano al 349-238-6666, c'è chi scrive: se non hai uno stalker è perché sei un cesso. Sì, l'ho letto questo messaggio. Finché arrivano questi messaggi, vuol dire che la profondità è la profondità del lavoro che uno dovrebbe fare. Per carità, non è che un messaggio, cioè, si sa che anche sui social e anche negli sms si vomita un po' quello che sono anche il pensiero. So, Veronica, è lunedì, uno si sveglia, dice vabbè, dai, diciamo una cazzata. Ma io mi chiedo, sì, ma chi le scrive queste cazzate? Non ha proprio nient'altro da fare? No, perché ogni tanto me lo chiedo, ma cercare uno scopo nell'esistenza che non sia scrivere delle idiozie prendendosela col proprio e vomitando schifo, devi, ma proprio solo, non c'è. Devi solo sperare che abbiano un contratto col cellulare per cui pagano i messaggi. E quindi io me lo auguro, ma mi chiedo anche perché non prendono veramente la zappa e vanno a zappare invece. Ma sul serio, avvocato, poi su queste tematiche aiutatemi proprio. Avvocato Adorno, abbiamo recuperato la linea. Cioè, il problema che pone anche Lara Comi è proprio questo, cioè monetizzare. Per carità, lei fa il suo lavoro d'avvocato e l'ha fatto, ha difeso il suo assistito. Non è che siamo qui a mettere in croce il lavoro dell'avvocato, però il concetto anche base della legge è che chi non la subisce questa cosa, chi non la sente sulla propria pelle, non la capisce veramente che cosa può comportare dal punto di vista. Uno si sveglia emotivamente, già è preoccupato, e quindi stona un po', stride vedere questi 1500 euro pagati, al di là di quanto guadagnava il suo assistito. Non è quello, è l'immagine. Allora, io capisco, però allora diciamo che i fatti minori, però questa norma credo che sia nata per deflazionare un attimino le aule di giustizia, che sarebbero realmente ingolfate, e forse non ci sarebbe nemmeno una tutela reale e seria per i casi che devono essere attenzionati forse con maggiore scrupolo. Io ripeto, il caso in questione, il caso concreto è veramente di una portata lievissima, ma questo senza sminuire la persona offesa, le paure, lo stato d'ansia provocato nella persona offesa. È privo di pericolosità. Speriamo che non lo faccia più. Cioè, paradossalmente è stato utile questo caso. È stato utile, avvocato, perché con una cifra così chiaramente irrisoria si è risvegliata la polemica, e quindi probabilmente questo provvedimento, cioè, grazie a questo emendamento, non sarà più possibile liquidare il reato con una riparazione in denaro. Forse è una cosa che ha una logica. Noi ci siamo limitati a applicare la legge, e rispecchiavano le volontà del mio assistito, quelle di dire: non ti preoccupare, non ci sarà, non certo, avrai avvocato, nessun altro. Non della vittima, che ricordiamo ha rifiutato questa cosa, non certo. Era d'accordo. No, giusto, perché sono due le parti in questo. Certamente, carità. Cioè, la donna non è contenta di questi 1500 euro. Forse io lo posso capire, ma su questo io mi rimetto alla norma che mi diceva, mi dava questa possibilità, utilizzando lei ha, come dire, nelle maglie della legge si è giustamente mosso legittimamente. Poi capisco che questa sia una problematica molto delicata da affrontare. Ripeto, il caso in questione è veramente un caso di portata. Sì, va bene, di giorno. Questo. Speriamo davvero che non lo faccia più, gli abbia fatto anche una bella ramanzina lei, oltre ma ad averlo, assolutamente, ecco. Non oltre ad averlo in qualche modo difeso e aiutato. certo. Oltretutto è un paradosso, perché poi che cosa si pensa di ottenere? Cioè, il problema è anche la sensazione che nella mente di chi compie queste azioni, questi reati, non ci sia un minimo di logica e linearità. Anche rispetto a questo scatta la paura, perché è evidente che l'effetto che si ottiene è controproducente su una persona che si attenziona in una maniera così compulsiva. Sì. Quindi l'idea che quella a un certo punto si innamori perdutamente è... Vabbè, ma è chiaro che sono quelle forme ossessive. Lara Comi, per concludere, lei ha paura quanto, al di là del fatto di dire vediamo se esce dal carcere, immagino, cioè si è sentita un po' più sollevata nel vederlo in carcere rispetto molto. A prima? Molto. Guardi, molto, e mi auguro che ci rimanga anche molto. Però ecco una questione. Beh, sa adesso, non credo, sa come funziona la giustizia, non credo che possa appunto, rimanere in carcere. Proprio perché so come funziona la giustizia, non è che sono così tranquilla. Detto questo, però, il problema è anche la pericolosità. Ma chi ha la certezza che non sia pericoloso con quello che succede oggi? Nel momento in cui una persona effettua degli atti persecutori, già di per sé va oltre quello che è la libertà dell'altra persona. Certo. Cioè, io anche se fossi un avvocato non ci metterei mai la mano sul fuoco in una situazione di stalking che non è pericoloso. Questa è anche la differenza. Cosa vuol dire non è pericoloso? Succede poi che gli passano i 5 minuti, come è successo in tanti casi, ti arriva con l'acido oppure ti uccide? Cioè, io vedo a volte una sottovalutazione del problema. Eh sì, poi, però, d'altra parte non si può neanche, da un, chiamiamolo reato, comunque da un errore, da uno sbaglio, dire sicuramente cosa facciamo. Cioè, non lo sappiamo più, purtroppo. Cioè, non sappiamo quale sarà il comportamento. Farei anche degli esami psicologici, perché questo ecco. È un aspetto... No, secondo me questo è il punto centrale, perché esatto. Quello che volevo dire prima è proprio l'elemento della labilità psichica di chi lo fa, esatto. Cioè la sensazione, il timore profondo che viene è che siano persone, quando tu dici Ale all'avvocato gli ha fatto una bella ramanzina, il problema è che non ci sia la comprensione di quello che si sta facendo e che ci sia un elemento patologico, ma come in quel fa caso saperlo, è evidente, cioè, è chiaro, fai dei test, perché l'ansia diventa enorme altrimenti per chi si trova nella situazione, perché non è qualcuno di cui puoi prevedere il comportamento. In ogni caso, noi nel sentire Marco che ci chiama da Roma. Marco, buongiorno. Marco? Buongiorno. Eccoci. Mi sente? Benissimo, dica. Ah, buongiorno. Dunque, io come dicevo alla sua collaboratrice, sono circa 4 decenni che il mio... Pronto? Sì, la Pronto? Sentiamo Marco, noi la sentiamo bene. Sì, sì. Volevo dire questo. Nell'affrontare questa problematica, sono stati portati 2 casi estremi. Ciò che interessa, credo interessa un po' a tutti, è la fisionomia, l'identikit dello stalker nel vero senso del termine. E il caso della signora Lara, a mio avviso si configura come una vera e propria patologia psichiatrica. Infatti l'atteggiamento compulsivo della persona la dice tutta, nonostante le forme repressive. Marco, lei sta girando, ma cosa fa? Cioè, sta facendo una diagnosi al telefono? senso... No, sono 40 anni in Milan che faccio questa... No, ho capito, ma non ha conosciuto la persona in questione. No, però l'incoercibilità, sì. L'incoercibilità è un elemento che non ha bisogno di tante altri approfondimenti. La signora, io ho sentito tutta la trasmissione, sì. È tutto quello che ha detto la signora, 6 mesi, 8 mesi, rimproveri, eccetera, eccetera, eccetera, alla fine l'hanno portato in carcere. E quindi condivido con lei anche le preoccupazioni per il futuro, ovviamente, trattandosi di questo caso. Bisogna stare attenti poi a vedere, e anche il discorso dello stalkeraggio, nei casi molto più lievi che possono anche rientrare nella fastidiosità, possono rientrare nell'intraprendenza eccessiva, eccetera, eccetera, sì, eccetera. Sì. Il messaggio che io intendo dare, poi chiudo e le lascio grazie. La trasmissione, Milan. Il messaggio che voglio dare è che bisogna affrontare questo discorso con molto equilibrio, perché si fa presto oggi a andare avanti in termini di legge anche per qualche cosa. Lei dice forse... quindi il rischio a volte anche di esagerare, un po' come ci ha detto l'avvocato Adorno, che dice il suo caso, il caso del suo assistito era un caso di lieve condotta. L'ho capita così. La ringraziamo Marco, che dobbiamo andare in pubblicità, e ringraziamo Lara Comi, l'avvocato Piersandro Adorno. Cara Veronica, tra poco sai che avremo una professoressa che secondo me fa una cosa che ci spiegherà e che creerà polemiche, perché le persone reagiscono in maniera... fa il dialogo interreligioso, per cui fa anche leggere anche il Corano ai suoi allievi. Infatti vedi che tu sei aperta, eccetera. Ma io sono aperta, però ho ancora l'ansia per questo discorso, quindi adesso mi riprendo durante l'intervallo e poi cerco di rendermi pronta a polemizzare. Riprenditi. Sul prossimo argomento. No, ma non questo polemizzeremo, questo mi ha un po' angosciata, e molta solidarietà a Lara Comi. Leggo anche dei messaggi anche sul tema Lara Comi di un'idiozia in cui discutono, sì, i gusti estetici dello stalker. Dai, io dico vabbè. Dai, alla prossima funambola, va bene così. Tra poco i funamboli. Gas, gas, gas, gas, gas, ma ha ragione questo avvocato. Siccome sono ingolfate le aule, depenalizziamo il reato di stalker, ma a questo punto facciamo anche quello di omicidio, così ci mettiamo ad ammazzare tutti liberamente, poi si ingolfano le aule e depenalizziamo l'omicidio. Complimenti. Gas, gas, gas, gas, gas. Agente di commercio nel settore della ristorazione, mai chiamare i clienti alle 9 di mattina di lunedì, perché già ti mandano a cagare in altri giorni della settimana, ma in maniera particolare il lunedì non è assolutamente fattibile. Capisci, buona giornata a tutti. Che cosa hai combinato? Aspetta che c'è ancora. Questa stai mi lì, ha fatto lì, molto ridere. Lì, un'altra. A Roma i reati li trovi sotto la voce attività parlamentare. Fai il bravo, caro ascoltatore, che di reati parleremo alle 10:20. Cosa hai creato lunedì? Anche un altro ha scritto: il mio umore è peggio. Ragazzi, lunedì, lo vedi? Il giorno dopo. Scusami, la domenica. Ma se esiste il detto mal comune mezzo gaudio, almeno ci sosteniamo a vicenda, ci teniamo stretti e ci raccontiamo quanto soffriamo. Cioè, va bene così, no? Allora, alle 9:37 minuti, finalmente rientriamo con il vero Goran Bregovic, che mi quello mi vero? Sì. Cosa intendi dire? No. Che c'è un'assonanza con le nostre sigle? Esatto. Di nuovo vuoi polemizzare? No, perché è importante. Molte ci scrivono, ma le sigle iniziali nostre di Radio 24 sono state create appositamente. Però no, sono state composte da Goran Bregovic, no? No, sì. Ma come no, scusa? Ma me l'hai venduta così quando abbiamo cominciato? Smettila. Ma io perché mi trovo qui? Dobbiamo smettila con la mitragliata Peter Bescapè. Vogliamo salutare una funambola che lavora nel mondo della scuola da tanti anni. È un insegnante di religione in una scuola elementare. Siamo a Chiavazza, però in realtà è un quartiere di Biella. Salutiamo Stefania Laveder. Buongiorno professoressa, e grazie di essere qui. Buongiorno. Allora, la sua iniziativa è quella che in questi momenti raccontarla secondo me è importante, anche se glielo dico già creerà polemiche, perché lei può immaginare. Lei vuole portare i suoi bambini, i ragazzini, dove insegna? Una scuola primaria? Una scuola elementare, una primaria elementare. Totale, sì. A fare quello che si chiama il dialogo interreligioso, cioè a capire le varie culture, le varie religioni, esatto, eccetera. Tra queste ovviamente quindi c'è anche il Corano, che lei propone ai suoi bambini. Sì, perché in prevalenza i bambini che frequentano questa scuola sono cristiani e musulmani. Le tre religioni monoteiste, anche esatto, leggevo che ha portato a visitare tutto quanto, sia una sinagoga, una moschea e una chiesa cristiana. Sì, siamo fortunati perché a Biella abbiamo tutte e tre le realtà, e sono tra l'altro molto carine. Ecco, ad esempio, specialmente i bambini musulmani sono molto affezionati alla loro moschea, ci hanno anche accompagnato proprio volentieri. Abbiamo anche un tempio buddista, però non è in città, è più verso le montagne. Questa iniziativa perché secondo lei crea un po' polemica? Come sa, siamo, come dire, cioè lei capisce quando si dice che siamo in una cultura a prevalenza cristiana, e quindi bisognerebbe in qualche modo Sì, io però ritengo anche che la nostra cultura a prevalenza cristiana ci insegni dei valori di condivisione, no? E di conoscenza dell'altro, che mi paiono molto importanti, no? Mm-hmm. Mi rifaccio sempre un po' a Daniel Barenboim quando diceva: se vogliamo smettere di farci del male uno con l'altro, forse è meglio che cominciamo a conoscerci. E quindi lei, certo, lo fa in questa accezione. Beh, lei parte da un assunto interessante che dice: non ho mai capito perché durante l'ora di religione qualcuno debba essere lasciato fuori dalla classe, che è una teoria interessante, cioè che è meglio conoscere la materia per poi farsi un'idea. Sì, perché la religione in sé è un articolo che lega, no? Non che disunisce. Certo. Quindi mandar via i bambini mi sembra veramente un atto di scarsa carità, anche così. Vabbè, Santa, da quando la religione non è obbligatoria, come no, ci sono, certo, molti genitori, certo, che ma certo, questo è evidente, ma all'inizio dell'anno scolastico, quando ci sono gli incontri con i genitori, la proposta viene fatta e se viene accettata questa cosa si porta avanti, altrimenti no. Ci dica un po', qualcuno avrà fatto qualche polemica? Sa che spesso si dice, la classica risposta è: vada a provare a farlo in Arabia Saudita, insegnare in una scuola Arabia Saudita il cristianesimo o l'ebraismo. No, ma leggevo già un messaggio infatti che chiedeva se fa anche leggere la Bibbia ai bimbi invece musulmani. Sì. Sì, noi traiamo notizie proprio da tutti i libri sacri, specialmente da quelli che rappresentano le religioni presenti in classe. Mm-hmm. Cioè, confrontiamo gli argomenti a seconda di come sono declinati nei libri sacri. Però non è un'invenzione mia questa, voglio dire, fa parte dei programmi, se esistono ancora i programmi, e dei libri, no? La Bibbia è letta quando in terza si inizia a parlare dei miti. Sulle narrazioni della creazione c'è la Bibbia, quindi i bambini comunque fanno delle letture prese dalla nostra cultura religiosa. Certo. Quindi manca un po' l'altra parte, ecco, secondo me. Cioè che siamo noi a sapere poche cose di loro. Ad esempio, i bambini musulmani, no, hanno questa festa del Ramadan. Sì. Che rimane un po' nebulosa, perché non è che questi bambini abbiano molta voce all'interno della classe rispetto alla loro cultura. Quando i bambini ci raccontano di quello che fanno durante il Ramadan, qualcuno evidenzia il fatto che sì, il digiuno, ma il digiuno ce l'abbiamo anche noi come tradizione, no? Mm-hmm. No, ma è interessante, lei è proprio il manifesto, se vuole, del multiculturalismo, che sa che è un qualcosa che non tutti accettano. Per esempio, c'è un ascoltatore che ci chiama, Francesco da Bari, mi dico la redazione essere un po' critico su questa iniziativa. Sentiamo Francesco che ha da dirci. Francesco. Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono d'accordissimo con l'insegnante. Abbiamo capito male. Io ritengo che ormai l'insegnamento, premetto che non sono d'accordo con l'insegnamento della religione, cioè l'ora di religione, perché lo Stato deve essere laico, oggi più che mai. Però informare, specialmente le nuove generazioni, da dove veniamo, e informarli anche su quelle che sono le altre religioni, in questo caso anche la religione musulmana, va benissimo, perché lei è d'accordo a metà, perché l'insegnante però è di religione, lei dice non è d'accordo. Lui dice se lo fa tanto vale fare tutto, altrimenti meglio non farlo. No, io parlavo come finalità, cioè insegnare la religione. Mm-hmm. Non so se vorrei. Lei preferisce insegnare le religioni? Le religioni, ecco, allo certo, scopo informativo, esatto, culturale, sì, perché così anche il ragazzo si fa sì che non associ religione musulmana e terrorismo, cioè la conoscenza. Certo. Fa sì che non si certo perda poi nell'ignoranza. La conoscenza vale sempre, quindi lei è d'accordo sull'iniziativa, grazie no. Francesco. Poi Ale, uno dei punti fondamentali è anche la lezione di religione, l'ora di religione necessariamente deve essere vista come un'ora di indottrinamento religioso in cui io cerco in qualche modo di fidelizzarti, o può essere unicamente volta alla conoscenza delle religioni che sono parte integrante della nostra cultura? Mi sembra che la professoressa Laveder sia più per la seconda, no, di queste posizioni, professoressa, perché chiudere. Solo io, nel senso che proprio la legge stabilisce che l'insegnamento della religione non è catechismo, no? È certo, questa certo. La prevalenza è cristiana e benissimo, per il resto io il catechismo mio figlio lo mando a fare alla scuola di catechismo, sì, alla parrocchia, alla parrocchia. No, no, ma è chiarissimo. Professoressa Stefania Laveder, noi la ringraziamo perché ci ha dato uno spaccato sui giornali. Ovviamente questo ha creato anche un po' di qualcuno dice malumori, polemica, però mi sembra che, vedete, noi Veronica andiamo sempre al cuore delle persone quando stiamo poi tutti i giorni tutti noi a discettare di cosa c'è scritto nel Corano senza avere minimamente idea di cosa ci sia scritto nel Corano. Forse arriveranno le nuove generazioni che di bimbi leggeranno. Che fanno la terza elementare, che ci diranno cosa c'è scritto sul Corano pur essendo cristiani, quindi benvenga. Allora andiamo al traffico perché poi c'è un funambolo che si aggira, che è il nostro Leonardo Manera. Ho visto eccolo una capuzzella qua. Che aspetta, entrava e faceva ho capolino. Ho girato la telecamera, adesso lo puoi vedere. Ma sei bene. Molto bello anche tu stamattina. Ti ringrazio. No, era Leonardo che doveva dire ti ringrazio. È muto, non ha perso la voce. Traffico. I funamboli. Milan, vedi che nella scuola di mia figlia 2 ore a settimana di religione, fanno lavoretti e una mazza, 2 ore anziché fare inglese, matematica, qualcos'altro, 2 ore buttate al vento. Ah, eccoci qua, allora, alle 9.48 minuti c'è il nostro Leonardo Manera che, siccome lui si collega sempre agli argomenti che raccontiamo pescando nella sua vita, sarai stato anche stalker? No, non sono stato stalker, no. Ma no, c'è una cosa... No, sei stato stalkerato, immagino. Nemmeno quello, sì, qualche volta mi è capitato quando ero bello, ma la cosa che io non capisco, che veramente non mi riesco a spiegare con tutta la buona volontà, ma caspita, uno viene condannato, brurato e riceve tutte queste lettere di ammiratrici, gli stalker condannati... lettere di ammiratrici, uno ammazza i genitori, lettere di ammiratrici, sì. Ma come cavolo si ragiona? Io ho capito che per trovare una fidanzata devo commettere un reato, no. Ed essere condannato, no, questo no, è no, l'unico io lo modo sapevo, sì, no. io lo sapevo che avremmo ottenuto questo risultato, no. Milan è colpa tua, no, io devo andare in carcere, fare qualsiasi cosa, così no. Ho decine, migliaia di donne che mi scrivono, ma con che testa ragionano queste persone, allora. Porcaccia la miseria, è vero o no? Io vabbè. Non lo so cosa devo fare, devo andare lì infilare no. Un coltello no. Nella pancia no. Di Alessandro no, no, Milan no, no, ecco, lo sapevo. Io volevo suggerirti, Leo, se proprio devi commettere un reato, ecco, io mi terrei in quell'ambito lì, visto che siete in zona. Ma già arrivano a prenderlo. Non mi spiego sta cosa. Non me la spiego. Non ne posso più di queste che mandano le lettere, ammazza i genitori. Attenzione, commissario. Scusami, ma questa sirena è all'altezza della sigla del defurbizziamoci? Che è? No. Vuol dire che è un paese, scusate il termine, anche pieno di deficienti, perché gente che manda lettere così. L'hai scoperto alle 9.50 del Maria del Cedro. Che bello, com'è liberatorio sentirti dire queste cose. E poi l'altra cosa sulla storia della religione. Io quando facevo il liceo scientifico negli anni 80, quindi si parla di tanti anni fa, caspita, allora c'era l'ora di storia delle religioni. Quindi già allora era una cosa che si faceva, che secondo me è molto utile. Anzi, non è che è una cosa così meno utile della matematica. Se tu conosci delle cose che sono intorno a te, questa cosa ti serve per vivere meglio. Attenzione anche, perché c'è Lucia da Bergamo che ci scrive. Oh. Manera, ti voglio così innocente e intelligente. Ora. Entrambe cose che non ho, peraltro, l'innocenza e l'intelligenza. Leo, invece tu sei amato così perché sei candido. Non c'è bisogno che candido. Tu infili quel pugnale nella allora, pancia di Milan. Veronica, io sabato poi ero a accompagnare mio figlio tra le varie disavventure che mi sono capitate sabato, che mi è capitato di tutto. Strano, anche questo è bizzarro. Ero ad accompagnare mio figlio alla partita di calcio, che lui gioca a calcio. No? Uh-huh. Allora ero lì mentre lui si cambiava, che guardavo il Corriere della Sera e ho letto un articolo sul Corriere della Sera di sabato. Il titolo era Pisa Pia è fermo al bivio, dai bersaniani un'imboscata. Poi leggo l'articolo, la voglia di rammendare la tela c'è, prova ne siano le telefonate ieri tra Bersani, Errani e Pisa Pia, ma lo strappo è grande, l'incubo di Pisa Pia è far la fine di Romano Prodi triturato dalla sua stessa maggioranza. Ecco, quando ho letto questo articolo ho avuto subito alcuni effetti collaterali, mal di testa, nevralgie, cefalee, nausea, secchezza delle fauci, eruzioni cutanee, crescita eccessiva pilifera. Una volta quando leggevo i giornali vedevo qualcosa che non sapevo, pensavo di dovermi informare. Adesso quando sui giornali vedo questi articoli dico grazie a Dio non so niente di queste cose, preferisco vedere il gatto Doraemon con mio figlio. Anzi, se io dovessi scegliere uno da votare tra tutti questi, voterei proprio il gatto Doraemon, che mi sembra più affidabile, sicuramente con più seguito e più rappresentativo. Chi sono i protagonisti? MDP, cos'è MDP? Campo progressista. Io sono sicuro che se vado per strada e chiedo a 100 persone il significato di MDP, uno, forse due lo sanno, e questi due che lo sanno non sono persone normali, sono stalker della politica. Cosa significa MDP? Movimento dei politici meglio di prima, mamme dopo parto. Cos'è MDP? Che consenso potrà mai avere MDP? Poi c'è Campo progressista, cos'è? Il nuovo gestore telefonico. Abbonati anche tu a Campo progressista, in omaggio 1000 sms gratis tra te e Rani Pisa Pia Fratoianni. Poi c'è Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico. Tabacci anche brava persona, ma cos'è Centro Democratico? Chi rappresenta? Io sono andato nella panetteria sotto casa mia della signora Bruna a chiedere cos'è MDP, Campo progressista, mi ha picchiato con uno sfilatino e aveva ragione la signora Bruna. Quando leggo sui giornali cose di questo tipo mi voglio di saperne ancora meno, di far qualsiasi altra cosa. Il primo desiderio è barricarmi in casa e non andare più per strada e a votare fino a quando restano solo due partiti e basta, con nomi di fantasia che so Sole Malato e Tramonto Rosso e basta. Io sabato mi sono svegliato presto, ho portato mio figlio a catechismo, sono rimasto in chiesa a cantare canzoni al catechismo per i bambini, cosa, esperienza terribile. Sono tornato a casa, mi si è rotta la macchina, ne ho noleggiato un altro, ho preparato il pranzo per mio figlio, lavato i piatti, l'ho accompagnato mio figlio al torneo di calcio, tornato a casa e poi sono andato a fare lo spettacolo. Ecco, io vorrei andare a votare un partito che mi alleggerisse un po' la vita. Io voglio votare un partito che, se mi si rompe la macchina, viene col carro attrezzi e me la fa riparare. Io un partito così lo voto. Altri di altro tipo no. Almeno fino a quando non hanno, grazie a Dio, rammendato la loro tela. Basta. Basta. MDP. Mamme dopo parto. Io lo sento un po' dedicato a me questo monologo, Leo. Un po' me lo sento dentro. Guarda, non eravamo d'accordo, ma io stamattina ho aperto il Corriere della Sera, che poi è come Repubblica, le prime due pagine su MDP Pisa Pia, auguri, e ho twittato, ho fatto la foto, ho detto io voglio credere che l'Italia non sia questa cosa qui. Ma paginate poi, no, questa è la cosa che non si spiega. Io mi sono identificata moltissimo nello stalker della politica. E voi dovete cioè capire che Veronica Gentili le compulsa queste paginate, non è che le legge, le rilegge, le medita, le commenta. A me piacciono proprio, capito? Cioè io sto lì, le leggo, le rileggo. Sai che è una forma di patologia, potresti è un reato. Secondo me dovresti andare in carcere, così hai tantissimi ammiratori che le scrivono, ti fidanzi fissa, ti sposi e una serie di figli infiniti. Con varie delle persone che mi mandano lettere in carcere. Certo. Secondo me finirà così. Io sono una delle due che conosce la sigla MDP. MDP, mamme dopo parto. Va bene. C'è Simone da Roma, ce la fai in 10 secondi? Simone, buongiorno. Ma certo, buongiorno. No, io volevo fare un monumento virtuale alla professoressa, perché io ho 53 anni, sono un po' vecchiotto, no? E ho subito l'insegnamento religioso da un sacerdote che veniva lì a convincerci del creazionismo piuttosto che dell'evoluzionismo, e quella per me era veramente una patologia della professionale. No, ma è chiaro, va bene, i 10 secondi sono finiti. Monumento alla professoressa La Vederda, Simone da Roma, grazie. Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Funamboli. Mi leggo un po' di giornali su MDP, ecco, vado a sfogliare le pagine, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Manera, sei circondato! Rilascia gli ostaggi ed esci fuori dallo studio. Non ti preoccupare, ci sono già decine di ammiratrici qua fuori. Seguirò il consiglio, è l'unico modo. Allora, tra l'altro, cara Veronica, tu forse sei giovincella, non ricordi, ma questa è la sigla di Baywatch, amico, Baywatch. Baywatch però si ricorda comunque, a qualsiasi età. Ah, io ricordo alcune cose. Pamela Anderson. Il costume, esatto, il costume rosso intero di Pamela Anderson è ancora un riferimento per tutti noi, Sì, però sì, io preferivo l'altra, la mora con gli occhi verdi, che non ricordo come si chiamava. Io nel dubbio tutte e due. Preferisci le more, lo Leo, bravo. Io nel dubbio tutti e due, tutte e due, dice. Perché sono quelli che, capito, che pasturano nel dubbio, magari una ce casca, capito? Allora, tra l'altro, questa sigla di Baywatch tra poco la spieghiamo, però io vorrei ricordare che tra poco parliamo anche della questione dei reati, no? Che è il tema che abbiamo lanciato all'inizio, la mappa dei reati che oggi è sul Sole 24 Ore. Chiamateci all'800 24 00 24, perché con vostro forse stupore dobbiamo registrare che nel 2016 sono diminuiti del 7,4% in generale i delitti, in generale. Certo, Veronica, alcuni... Ci tenevo a fare presente che nella città di Roma i reati sono in calo dell'11,4% su base annua, e si posiziona ora con 627 reati contrapposti ai 650 reati di Milano. Dunque, tutte le teorie decadono. Sei provinciale, sei piccola, sei autoreferenziale. Lo stai dicendo proprio tu a me? E quella partigianeria è un po' fastidiosa, fastidiosa, diciamo. Veramente. Che volete farci se Roma è capitale? Però dobbiamo anche dire, forse ci sono dei reati come i furti, gli scippi, anche i furti nelle case, che purtroppo gli italiani non denunciano più, perché soprattutto lo scippo per strada o il furtarello, voglio dire, non è che uno va poi a recuperare la collana. Io però ho subito ogni tipo di furto. Questo è strano. Leo, io non l'avrei creduto. A me ha rubato la bicicletta, la macchina, mi ha rubato il portafogli in metropolitana, mi sono entrati in casa, quindi bene o male l'ho avuto tutto. E siccome i primi tempi denunciavo, come penso poi molti italiani, ma senza nessun risultato, quindi alla fine poi... Dopo hai smesso e hai iniziato a comprare dei biglietti per Lourdes. Sì, certo. No, a proposito, hai detto del furto di bicicletta. Ragazzi, oggi c'è una notizia che è la notizia che ho trovato sul Corriere della Sera.it, ma c'è ovunque, è una cosa che veramente mi ha stretto il cuore. C'è un medico francese che sta facendo il giro del mondo in bicicletta. È partito da Hong Kong, ha attraversato tutta l'Asia, la Cina, l'Indonesia, l'India, la Turchia, è arrivato in Italia, gli ha rubato la bicicletta a Castel Volturno. Ma perché ci dobbiamo distinguere sempre nel così, mondo? Perché? Almeno perché? Si ricorderà dell'Italia, gli sarà un ricordo. Perché? Lui aveva deciso di finire il viaggio a Castel Volturno. Perché? Lì si è sbarazzato della bicicletta perché l'idea era quella di finire lì il viaggio. O tu, ladro di Castel Volturno, per ladra. Quale motivo hai voluto farci fare questa figura barbina agli occhi del mondo? È inutile, andiamo a rinforzare i luoghi comuni, purtroppo, vabbè, in questo vabbè. Modo. Certo, a Roma i delitti sono diminuiti, a Castel Volturno si rubano le biciclette dei medici francesi che fanno il giro del mondo. Questi luoghi comuni così, insomma. Che fatica. Allora, tanto faticoso. Se non ti vedessi il ciuffo sarei arrabbiata, ma così provo solo una grande compassione. Perché abbiamo messo Baywatch, cara Veronica? Perché ecco la Perché finalmente hai invitato Pamela Anderson, no, e ti diverti? No. Perché abbiamo un funambolo straordinario, un bagnino particolare, una persona che è il funambolo del giorno che sentite qua. Nome: Pio. Cognome: Schiano. Età: 98 anni. È l'assistente bagnante ancora in attività più anziano d'Europa. Non so se avete capito, cari ascoltatori, cara Veronica, 98 anni l'ospite funambolo che abbiamo oggi in diretta. No, ma non so se hai capito che cosa fa a 98 anni, perché il punto è questo, oltre ad averceli. Intanto lo salutiamo, Pio Schiano, assistente bagnante, il più anziano d'Europa, forse del mondo. Grazie. Ci spiega un po' come nasce, tanti anni fa, immagino, il legame con il mare, la passione per il mare. Io sono andato, più passione di questa del mare. Scusa, io sono andato a Ostia Lido, e che ancora non c'era, insomma, Ostia non ci esisteva, a 50 metri dal mare, dentro una capanna, e può immaginarsi che io amo il mare. Il papà si fa meglio, siccome l'acqua c'era, ma l'ho con l'acqua del mare. Ma lei dice che il mare è stato una specie di battesimo proprio. Sì, hanno battezzato con l'acqua del mare. Da quando invece ha iniziato a fare l'assistente bagnante? Io non ho aspettato che arrivasse ai 18 anni, perché a 12 anni io stavo allo stabilimento Lido, sì, e la marchesa Necruni, che ha dovuto ammarare con l'aereo e il mare era mosso. E tutti i marinai che tentavano il salvataggio sono uscito io che avevo 12 anni. 12 anni. Quindi una vocazione praticamente. Sì, sì. Io senza il mare non ci posso stare. Cioè, l'amore della sua vita, più delle donne, più di tutto. A me nel mare so che non mi tradisce, le donne tradiscono. Questa è una grande saggezza. Questo è molto vero, però so anche che lei ci tiene a dire che il mare va preso molto sul serio, che non bisogna scherzarci, bisogna rispettarlo. La vita mia, il mare, come posso fare? Io il mare lo conosco bene, io so quanto il mare è pericoloso, ho sempre navigato con la barca, la pesca. Uno bisogna andare a rispettarlo, perché il mare è una grande potenza. In tanti anni, quante persone ha salvato Pio? Senti, io non lo so, ma ho passato io i 10.000 salvataggi, sappi. 10.000. Non so se gli ascoltatori si rendono conto, ma il signor Pio ha 98 anni, quindi quando è nato 100 anni fa era totalmente diversa la situazione. Da Ostia non c'era niente, Ostia non esisteva. Non c'era... Ma tutte queste persone che ha salvato le sono state riconoscenti, grate? C'è avuto tanta gente poi negli anni che veniva lì. Guarda, ti dico la verità, nessuno che ti ha fatto qualcosa. Una volta soltanto uno, sì, ho salvato a lui e la moglie, mi ha detto che mi mandava in quintale di caffè. Manco un chilo, sai, di un chilo. No. Non è arrivato neanche un chilo, ma insomma. Ma, non ma come? Ma nemmeno la gratitudine. Senta Pio, come è cambiato il turismo in tutti questi anni? Il turismo qua è cambiato perché prima... era, come si dice, povera, però era onesta, non esistevano i bambini, non esistevano niente. Oggi sulle spiagge sono tutti i ladri, i ragazzini, è più come prima. Guarda. Ma invece ho capito che i suoi figli cercavano di farla smettere di andare sul pattino, eh? Mentre lei ha detto, se mi fate smettere io muoio. No, quello no, perché io il mare ce l'ho qua. Io adesso stiamo qua a 70-80 metri dall'acqua. Sì. A me basta già quello, no, il pattino è stata una cosa in più. Basta sentirlo, e il mare, poi, sentire che è lì. Perché poi è la cosa che è più importante, a me è vedere il mare, i movimenti dell'onde, quanto cambia il tempo, insomma è una cosa mia, una cosa che io la vivo. Dà una gioia dentro. Quello è l'amore. Senta Pio, le facciamo davvero tanti auguri di una vita eterna a questo punto. Grazie, un'ultima grazie. Domanda Pio, ma qual è il segreto per campare fino a 100 anni? Ce lo dica. C'era detto, no? C'era detto, dice, ma come fai a campare tanto? Perché mi sono sempre fatto affari mia. Oh, si è fatto gli affari suoi. Basta farsi gli affari propri. La ringraziamo Pio, un abbraccio. Grazie mille, lunga vita a Pio. Che poi infatti molti ascoltatori ci scrivono, ma la voce di un 53enne, mamma mia che lucidità. Però ditela la verità, che in realtà lui ha 53 anni, è stato venduto così, è una grande truffa che avete fatto, per spacciarlo come un anziano ancora in forma. E non trovavamo storie funamboliche, abbiamo acchiappato un signore giù di sotto. Abbiamo fatto. Sì. Pio Schiano, assistente bagnante più anziano d'Europa, tra un mese fa 98 anni, ragazzi, 98. Hai capito, Leo, qual è il segreto per la longevità? Ho capito, per rinforzare un altro luogo comune, che il nuoto è lo sport più completo. No, ti devi fare gli affari tuoi, e questo è il segreto. Ma non ci arriva. No. Insomma, è dire si che distrae. Sio Pio te l'ha detto bene. Te l'ha detto chiaro, te devi fare gli affari tua, niente proprio. Allora, dopo il traffico, l'Italia con la mappa dei reati oggi sul Sole 24 Ore, ogni ora 284 denunce che fanno ogni 24 ore, prima ve l'ha detto Veronica Gentili, ma non mi ricordo la moltiplicazione, 6.000 e qualcosa al giorno. 6.186 reati al giorno. Ecco. E qui a Milano siamo in pole position. Siamo in pole position, infatti mi colpisce, ecco. Primi per i delitti totali. È molto pericolosa Milano, non siamo lo sapete, secondi per le rapine dietro a Napoli, secondi per i furti dietro a Rimini. Perché è una città che primeggia un po' in tutto, quindi anche nei reati, diciamo così. No, non lo so. No, lo sai che dicono quando si va a Milano di togliersi il Rolex? Eccola. A me l'hanno detto veramente a Napoli, non sto scherzando. Certo che si dice sempre di Napoli, però adesso Leo, se ci dici anche che ti hanno rubato il Rolex dal polso a Napoli, no, non credo di farcela. È successa una cosa veramente spiacevole a Napoli, adesso non è per polemizzare, però è stata accoltellata una persona davanti a me a Napoli in Piazza Bellini. Accidenti. Qualche anno fa è stata veramente una brutta esperienza. Il centro storico di Napoli, Piazza Bellini è proprio centro storico. Eh sì, Piazza Bellini è pieno pieno centro. Comunque molto voglio far notare piazza. Le rapine, le più colpite appunto è Napoli, al secondo posto Milano. Ma dopo il traffico vi diciamo tutto tra poco, state con noi. Roma è sempre virtuosa. Stai zitta, va. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta i funamboli. Allora, oggi il Sole 24 Ore, pagina 2-3, l'inchiesta di Michela Finizio. Quasi 7.000 reati al giorno in Italia, ma la moltiplicazione corretta l'ha fatta Veronica, che è? 6.186. Perfetto. Un dato che registra il calo del 7,4% su base annua, quindi questa è una buona notizia. Sono i dati appunto del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno elaborati dal Sole 24 Ore. Cosa arretrano? In genere arretrano scippi, borseggi, effrazioni, e invece aumentano truffe, frodi informatiche e casi di usura. Ecco, questo mi inquieta molto. La criminalità si è evoluta, si è innovata anche lei, e quindi ha detto non si può più utilizzare questi sistemi analogici, passiamo al digitale. Comunque la cosa strana in generale è che i reati diminuiscono anche rispetto a 10 anni fa, se ne parlava un po' di tempo fa. I reati comunque in generale sono diminuiti, ma la percezione è che siano sempre di più. E questo è tra l'altro un punto interessante, perché la percezione appunto è un elemento da cui non si può prescindere, bisogna tenerlo in considerazione, però i numeri dicono una cosa un po' diversa. Questo è un elemento di cui si è discusso anche molto, e lo sappiamo, quando rispetto anche alla tematica immigrazione, la percezione che c'è collettiva di un incremento enorme dei reati, quando in realtà dal punto di vista concreto c'è un calo dei reati. Quindi la narrazione che ne facciamo anche probabilmente a volte è un po' lievemente alterata. Sì, colpa di voi giornalisti. Colpa nostra. Lo sapevo. Ai quali hanno anche scritto, questo per tornare un attimo a Pio, se per campare 100 anni basta farsi gli affari propri, poveri giornalisti. Ecco. Questo è uno dei messaggi. Tra l'altro, ci vedo brutti. Un elemento da tenere in considerazione, come avevo detto prima, è che magari alcuni furti non vengono neanche più denunciati. Immagino per esempio il cosiddetto scippo, lo strappo della catenina che avvengono per strada. Forse c'è una sfiducia, ma lo chiedo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, c'è una sfiducia verso le istituzioni, a dire ma tanto se anche vado a denunciare che cosa. Beh, cosa però io devo dirti, quando mi entrarono in casa alla fine vennero i carabinieri, vennero i carabinieri e mi sconsigliarono di far denuncia. Addirittura. Loro me lo dissero, perché dissero perché? Perché dissero è inutile, perché non troveremo mai la persona che è entrata, quindi è tempo perso, me lo dissero proprio loro. Capisci. Comunque noi abbiamo due ospiti. Uno è l'assessore alla sicurezza di Rimini, Jamil Sadegholvad, che abbiamo già avuto ospite, e di questo cognome iraniano ma italianissimo. Buongiorno assessore, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Così come salutiamo il sindaco di Oristano, Andrea Luzzu. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno a voi. Intanto assessore, a me è un po' colpito, non so se lei ha già visto i dati, perché Rimini, per carità, non, magari torniamo su quest'estate eccetera, ma al di là di tutto, furti totali è la provincia più colpita, furti in esercizi commerciali è al terzo posto in Italia, e poi ci sono insomma classifiche, non borseggi è prima in Italia. Come mai, assessore, vi preoccupa? Ma guardi, Rimini ha problematiche che sono né più né meno quelle di tante altre città in Italia. Nella classifica del Sole 24 Ore da anni noi cerchiamo di evidenziare una anomalia che è tutta statistica, ovvero quei dati effettivamente eclatanti che lei citava sono pesantemente condizionati dal fatto che la provincia di Rimini, a fronte di 330.000 abitanti, ha qualcosa come 16 milioni di presenze turistiche certificate ISTAT, ovvero sono quasi 50 presenze turistiche pro capite per abitante. Per fare un esempio, Roma ne ha 7, Milano 4, Firenze ne ha 14. Però non so, Venezia, Venezia non c'è nelle classifiche, Venezia è una città molto turistica. Infatti assessore, le volevo chiedere, ma secondo lei è anche il tipo di turismo che c'è? Perché evidentemente c'è molto turismo, però c'è anche un turismo, sappiamo, l'estate, molto giovane, insomma conosciamo com'è anche la vita notturna a Rimini. Secondo lei questo ha un'incidenza importante? Ma noi abbiamo a Rimini molti turismi, è vero, abbiamo un turismo giovane, anche se è vero nel corso degli anni forse l'incidenza è un po' diminuita di questo tipo di turismo, ma abbiamo un turismo di tante famiglie, abbiamo un turismo fieristico, congressuale, insomma il turismo porta benessere, ma porta anche inevitabilmente anche qualche fenomeno legato alla criminalità, al furtarello sull'autobus, allo scippo, insomma sono tutte dinamiche tipiche di una grande realtà turistica come è quella di Rimini. E quindi in qualche modo è inevitabile che si crei questa situazione, secondo lei, o c'è modo di arginarla? No, no, non voglio edulcorare la pillola, insomma è chiaro che i fenomeni ci sono, noi da tempo chiediamo al Ministero che Rimini abbia una adeguata considerazione a livello del Ministero dell'Interno per quanto riguarda la questura. Noi siamo in fascia C, è un termine tecnico, ma per intenderci Rimini vale quanto Isernia, con tutto il rispetto per Isernia, in termini di considerazione di questura, cioè Rimini a nostro modo di vedere dovrebbe considerata essere più, come più una realtà, non dico metropolitana, ma comunque quasi a quel livello. No, tra l'altro, assessore, dall'altra parte noi abbiamo chiamato il sindaco di Oristano, perché in questa classifica Oristano si trova tra le meno colpite, sia come rapine, sia come truffe, frodi informatiche, come borseggi, come furti in esercizi commerciali, come furti totali. Tra le più virtuose. E diciamo che compare in tutto le meno colpite in queste classifiche. Sindaco, ovviamente lei sarà soddisfatto. Fatto, ecco, ma perché c'è questa disparità tra città e città? Ma siamo soddisfatti, però ha ragione l'assessore di Rimini, che sono considerazioni statistiche che hanno tutta una serie di valutazioni e di giustificazioni da dare. Certo, Oristano in questi aspetti, cioè il fatto di essere considerato una delle città più sicure d'Italia, è ormai da anni. E quindi il ripetersi di questi risultati confermano che non siamo di fronte a fatti episodici, ma sono caratteristiche della nostra città, del nostro modo di vivere. Ma secondo lei ci sono anche proprio, c'è una ricetta in qualche modo che lei consiglierebbe anche ad altre città? Ci sono delle accorgimenti? Non mi permetto di dare consigli a dei colleghi che sono in prima linea e sappiamo di cosa stiamo parlando per tantissime cose. Ricordatevi che i sindaci oggi sono soli e sono in prima linea contro tutto, contro la legalità, per il problema dell'immigrazione, sono i responsabili della sanità, sono i responsabili della protezione civile, quindi andremo a affrontare dei discorsi che semmai faremo in altre occasioni, sì, però relativamente a questo aspetto noi siamo sicuramente soddisfatti di queste nostre caratteristiche, che però dobbiamo anche sfruttare. Noi siamo da tempo anche primi per questioni ambientali, ecosostenibilità urbana, però il fatto che la città sia sicura, l'ideale è che le imprese che vogliono investire qua e tutta un'altra serie di attività di sviluppo, di turismo, sappiano che Oristano è pronta. Sì, questo è vero. Assessore, sindaco, per confortare il suo collega di Rimini, può invece dire qualche problema che c'è a Oristano, così almeno anche lui si tira su di morale, va bene, problemi grossi, cose da risolvere. Guarda, ne abbiamo moltissime, soprattutto in merito purtroppo allo sviluppo che non riusciamo a far decollare, all'occupazione, i nostri giovani vanno a cercare lavoro fuori, quindi è il rovescio alla medaglia. Rimini da questo punto di vista credo che possa insegnare a molti comuni, e quindi, come ha detto giustamente l'assessore, però hanno un problema legato alla elevatissima presenza turistica. Noi purtroppo soffriamo anche perché siamo isolani e sapete perfettamente cosa vuol dire il trasporto con navi e con aerei per la Sardegna, e quindi soffriamo del problema opposto. Però non so cosa ne pensate voi, non so cosa ne pensi Veronica, Leonardo, i nostri ascoltatori, perché dicono la percezione va bene, certo è colpa certamente anche una certa rappresentazione che alcuni mezzi di informazione danno. Però la percezione è anche qualcosa che uno sente proprio sulla propria pelle, non è che io accendo la TV in base a quello che dice la TV, che è falsa, dico, ma è finta. Guardi, se posso la percezione, cioè, uno andando nelle strade, io a Milano Oristano, la percezione non è certamente di essere la città più sicura d'Italia. Assolutamente, la percezione non è questa. Io dico anche a Milano, nei quartieri in cui vivo, non lo so Veronica, se tu, mi sembra che la situazione, allora i casi sono due, sono invecchiato io o è peggiorata la situazione. E io comunque ora non vorrei sempre fare battute a sproposito, ma questa prima ipotesi la prenderei in considerazione. E io infatti vedi, quindi, mi metto in dubbio, in discussione. È giusto che tu, giustamente agnostico, prenda in considerazione, scusate assessore e sindaco se vi coinvolgiamo in queste diatribe. Io credo che manchi un po' la memoria, perché ricordo che quando sono arrivato a Milano nell'89, la situazione dove abitavo io era oggettivamente peggiore di questa, vedevo gli spacciatori che arrivavano, c'era più comunque microdelinquenza, solo che poi con gli anni ti dimentichi e vedi sempre presente. Io onestamente credo non la vedi peggiore. No, non la vedo peggiore di 30 anni fa. Io voglio fare un esempio che mi è rimasto particolarmente impresso. Accade un delitto in pratica, un quartiere di Roma veramente molto sicuro, ben frequentato, non è un quartiere, è sicuramente un quartiere difficile. Nella narrazione collettiva, giornaliera, si parlò di un quartiere abbastanza pericoloso, situazione di degrado, scarsissima sicurezza, pericoloso per uscire la sera. In quei casi, avendone contezza proprio, insomma, essendo un quartiere che conosco e frequento, mi sono resa conto che talvolta c'è una narrazione realmente sbilanciata delle cose. Non dirla a me che abito vicino a via Padova, che è descritta a me fuori Milano come, come dire, il terrore di Milano. Invece puoi camminare a Padova proprio perché c'è tanta gente tranquillamente. Certo, non è che sono tutti stinchi di santo, però no, resta può. La zona dove ci sono più interventi dai carabinieri, questo, delle forze, sì, pubbliche. Io vorrei tornare per un attimo a Rimini, all'assessore Sadel Govad, perché ci deve aiutare a capire, anche alla luce di quello che è successo quest'estate, che tra l'altro l'ha vista molto in prima linea. Ricordate l'episodio più brutale? Fu la violenza nei confronti di questi due giovani polacchi, soprattutto la donna. Quello, secondo lei, Sadel Govad, ha gettato un'ombra sulla Rimini che tutto il mondo conosce. Vi siete ripresi psicologicamente dal punto di vista della città da quel delitto? Sicuramente è stato un episodio terribile per la città, innanzitutto ovviamente per le donne che l'hanno subito. Rimini chiaramente non è una città degli stupri, e poi nei giorni e le settimane a seguire si è capito bene come questo fenomeno, purtroppo è un fenomeno nazionale, europeo, mondiale, purtroppo ogni giorno c'è uno stupro, una violenza su una donna in giro per l'Italia. Noi siamo stati vicinissimi alle vittime della violenza sin dalle primissime ore, e continuiamo ad esserlo anche in tutto l'iter processuale. Devo dire che anche le istituzioni hanno dato una risposta straordinaria, perché in una settimana sono stati catturati questi quattro criminali. Quindi a Rimini le istituzioni ci sono, Rimini è una città sicura, dove abbiamo un tasso di fedeltà turistica fortissimo. Ogni settimana io premio turisti che vengono qui da 40, 50, 60 anni, quindi evidentemente sono persone che trovano la nostra città bella, accogliente e anche sicura. Certo. Va bene, noi sia l'assessore di Rimini che il sindaco di Oristano vi ringraziamo per questo spaccato. Poi tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore. Continuo a non vedere Roma, ma adesso la troverò. No, guarda che l'ho già trovata io. Ti dico Roma è in seconda posizione con 627 reati. Ora, se il tuo problema principale è uno scontro tra me e te, a Milano sono 650. Dunque, devi rassegnarti. Tu delinqui più di me. Ragazzi, mandare 50 anni in vacanza nello stesso posto, ok? Insomma, mancanza di fantasia, sei colpito. Ma ci sono persone che lo fanno. Vediamo un po', c'è Paolo da Macerata, credo, sul tema che abbiamo affrontato prima. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Io volevo intervenire su questo presunto diminuzione dei reati. Io parlo di presunto e le spiego perché. Allora, io ho subito tre furti tra io e mio padre e un tentativo di furto. Fortunatamente sempre piccole somme, 500-400 euro, roba del genere. Allora, i primi tre li ho denunciati, tra cui c'era il furto di un telefonino a mio figlio, che ho fatto la denuncia prontamente ai carabinieri la sera stessa, dopo un'ora che era successo, e niente, non si sapeva più niente. Poi, avendo la fortuna di conoscere qualcuno che lavorava in procura, mi hanno detto: guardi che non risulta nemmeno a noi questa denuncia. Dice: come dico non risulta? Io l'ho fatta. Dice: molto probabilmente è stata mandata su col calderone di fine mese. Scusi, dico, che significa? Significa che dalle caserme dei carabinieri vengono mandate via a fine mese, dice, tutte le denunce che vengono fatte. Sembra quasi il calderone. Sì. Che hanno fatto un grosso pacco e le hanno buttate. No, mi scusi, mi faccia finire di, perché la cosa è grave, insomma. Dice, la maggior parte vengono tranquillamente archiviate senza che nessuno nemmeno le guardi. Infatti, chiaro, ho dovuto rifare un'altra denuncia. Questa volta l'hanno presa in considerazione, che io avevo un grosso sospetto su chi fosse stato. Dopo due settimane hanno trovato il telefono. Peccato che fossero passati sei mesi, che il telefono era tornato a casa tutto rotto, che la signora che l'aveva, guarda caso, era una straniera, abbia logicamente detto che lei l'aveva comprato senza pensare che fosse rubato da un'altra sua collega, sì, anche lei straniera, che nel frattempo è andata da un'altra parte, nessuno l'ha cercata. No, ma è chiaro. Fatto sta che il quarto purtroppo subito, non l'ho nemmeno denunciato. Perché no, ma Paolo, è molto chiaro, per riassumere, perché dobbiamo andare alla borsa, è chiaro che lei dice 4 furti, io nella vita ne ho subiti 0, adesso tocco ferro, cioè purtroppo le statistiche poi prendono nel mucchio, lei chiaramente ha un'esperienza molto sfortunata, qua figuri c'è Leonardo Manera che ha subito no, che chiaramente bilancia qualunque genere di statistica. Esatto, però per esempio un'anomalia è Napoli, che è una cosa davvero strana, Napoli è più in basso nelle classifiche, allora non si capisce se sia perché la gente denuncia meno, perché è demotivata anche a denunciare, o perché realmente c'è un calo della criminalità. Nelle rapine però è sempre in testa. Comunque tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, eh? Dai, andiamo alla borsa, poi state con noi, altre belle cose qui a Funamboli. I Funamboli. Dai Milan, sveglia, i reati sono diminuiti perché la gente non fa più le denunce. Presidente Bagnini ha più vispo di Milan. Eh sì, è vero, è vero. La seconda è corretta come informazione, la prima non lo sappiamo. Non siate così cattivi con Alessandro, che ancora insomma in piena forma, diciamo, abbastanza nel complesso, ecco, lo più vedi, o meno. Lo vedi, lui ti attacca, però poi se ti attaccano gli altri, guarda come ti difende. Comunque devo dire, perché gli ascoltatori chiedono, anche un ascoltatore dall'estero ci ha detto, ma come sono i delitti commessi, sono relativi, assoluti? Allora, sono i delitti denunciati intanto, che trovate, quelli che non sono denunciati e non entrano nelle statistiche. Che questo è lo stesso discorso che facevamo sugli stupri, per esempio, no? I dati che abbiamo sono su quelli denunciati, e poi purtroppo c'è il sommerso. I delitti commessi sono ogni 100.000 abitanti, quindi sono relative agli abitanti. Bisognerebbe unire queste statistiche a un sondaggio sulla sfiducia e la fiducia, allora facendo un confronto equilibrato fra queste due statistiche potremmo arrivare a una conclusione coerente. Professor Guido Baldo, è arrivato un attimo, come mai? Allora signori, noi vi invitiamo a dirci se siete stati furbi, per defurbizzarvi, se avete dei lavori assurdi e assolutamente alla Guido Baldo, che noi non ho capito. Assurdi che... è troppo, assurdi. Ma no, assurdi da per me da capire. Bizzarri, strani. Abbiamo avuto il dietologo di bovini, voi capite, cioè, che per me quello, è assurdo. Quello ci era piaciuto, eh? Certo. Com'è. Scriveteci a funamboli@radio24.it, oppure se siete ascoltatori dall'estero. Ma la cosa grave è come ridi quando la senti arrivare. Se siete ascoltatori dall'estero, come Vincenzo, che salutiamo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno ragazzi e buon pomeriggio coreano. Coreano, ecco, coreano. Addirittura. Spero del sud. Sì. Spero del sud. Del sud. Ma poi, che aria tira? Dici un po', Vincenzo. Ma guardate ragazzi, innanzitutto spero di potervi dare del tu. Sì. Beh, ci mancherebbe così, altro. Non lo so, nel senso, i ragazzi di là hanno una certa età, per cui comunque con parsimonia, però vai. Dunque, la situazione qui è abbastanza tranquilla, quindi sì, le notizie che giungono provenienti dal nord sono quelle che tutti conosciamo. Però a livello di sicurezza è tutto sotto controllo. Sì. Ci tolga subito una curiosità. Mi tolga subito una curiosità. Però ha detto che ti voleva dare del tu. Se tu fai il vecchio, do del tuo anch'io. Allora, già l'anagrafe non aiuta. Su, Leo. Toglimi subito una curiosità. Ma questa è cavolo di camicia la coreana. Lì hanno tutti i colli così, o ci sono anche camicie col collo normale? Sono più occidentali degli occidentali. Quindi... Tra l'altro Vincenzo è il console onorario in Corea del Sud, che non è una carica, ricordiamo, della Farnesina, ma è una carica... perché console onorario, Vincenzo? Che... Dunque, innanzitutto perché vivo qua da 11 anni ormai, anzi da più di 11 anni, dall'agosto del 2006. Ed in più anche perché appunto agente consolare onorario è una carica che uno gestisce innanzitutto, come alcuni forse sapranno, a titolo totalmente gratuito, ma soprattutto per mettere a disposizione l'esperienza maturata in un paese così diverso rispetto all'Italia e nei confronti di tutti quei connazionali che per studio, per lavoro, per motivi familiari si trovano. Ma che a vivere fai tu, qui, Vincenzo? A Busan. Sei a Busan, appunto. Che sono fai? A Busan, sì. E sono professore di italianistica presso la locale università di lingue straniere. Che bello. Ed in più gestisco anche la cattedra di latino, un corso sperimentale per gli studenti cattedra di lingue di latino, e letteratura straniera. Come se la cavano i coreani col latino? Questo ci interessa molto. Io spero bene, anche perché ti dico la verità, Veronica, sono tenuto ad insegnare il latino in coreano. Cosa vuol dire? Che dal latino pratica, si traduce in coreano. Ah, sì, fantastico. In devo spiegare la grammatica latina, curare le versioni, però spiegando agli studenti tutto in coreano. Certo. È il vero multiculturalismo. Sì, diciamo che rispetto a 11 anni fa, quando mi sono trasferito da Roma a qui, sì, è un paese che è cresciuto e si è modernizzato tantissimo. Sì, sì, però Vincenzo, scusa, non è che li freghi, cioè hai spiegato bene che se poi vengono in Italia, anche a Roma, non è che se parlano in latino la gente li capisce. Ma perché devi dire così, Alessandro? Io se parlano in latino capisco perfettamente. Sì, non capisco perché tu dovrai sempre... In Vaticano forse, ecco. Alessandro è sempre sul pezzo, in quanto è la stessa domanda che mi pongono gli studenti prima di iscriversi al corso, dicendo: professore, ma se studio il latino, una volta che arrivo a Piazza San Pietro potrò comunicare in latino? Sì, questa è una domanda che ti avrebbe fatto Alessandro, Vincenzo, senza dubbio, no, se fosse stato tuo studente. Ci ha contattato, cara Veronica, a parte che è il nostro grande ascoltatore, perché quando abbiamo parlato di recente col campione mondiale di subbuteo, ci ha detto che lui è 3.000 squadre, se non ricordo male. Ci ha scritto magari 1.400 squadre di subbuteo. A 1.400, Veronica, cosa ti ha portato questa perversione? Esatto. Ma innanzitutto una passione che mi accomuna anche a Leonardo. Ha detto perversione, detto Leonardo, però. Ecco. Forse non è arrivata bene in Corea. E la sua Jugoslavia, campione del mondo dell'82, letti una sua intervista tempo fa. Ah sì, è vero, è vero. Io feci i mondiali dell'82 con un mio amico e facevamo anche alla fine il resoconto delle partite con le pagelle per tutti i giocatori. Di cioè, l'unico, uno dei pochi questo... mondiali che ha vinto l'Italia davvero. Che strane fatto creature che siete. Vabbè, ti dico questo, ma io ho 1.400 squadre e per ogni squadra ho redatto anche la formazione. Quindi questo è puro funambolismo applicato al calcio. Ma si gioca su Subbuteo in Corea? Ma io ho provato a proporlo agli studenti, però la Corea del Sud è la patria dei videogame. Ah, quindi mi guardano ancora come un po' come il vecchietto che gioca. Esatto, anacronistico, che ancora pretende uno straccio di socializzazione. Va un po' no, come il corso di latino, insomma. Sei vetusto. No, Vincenzo. Nonostante i miei 37 anni un po' sì. Ma di dove ti mandiamo un abbraccio. Dove Roma. Sei? Ecco. Eccolo. No, una scusa, domanda in latino. Usque tandem, Vincenzo, a butere su butum. Oh, vabbè, vedi, ragazzi, ma qui ragazzi siamo. I livelli sono altissimi. Vincenzo, che un abbraccio arrivi alla Corea del Sud. Se arriva razzi per cercare di far la pace con la Corea del Nord, tenetevelo lì, esatto. Lì, va bene, ormai pensiamo all'unisono, un cervello in due. Ciao al traffico. I funamboli. Cara Veronica, è tornato Peter, no, devo dire, ricevo un messaggio da Maurizio Bianconi, il nostro onorevole, mi scrivo un messaggio volevi privato. Non dirlo, ti stavi tenendo, poi non ce la fai, oh, vai. La faccio. Che t'ha detto Bianconi? Ma il dubbio che coteste statistiche siano ate pazzesche non vi viene, ma Bianconi, come ma ti permetti? Le statistiche sui reati. Ma perché lo leggi? Poi gli dici Bianconi come ti permetti. Ma dai, ma già così. È tanto che non ti abbia dato dell'imbecille nel messaggio così. No, cioè, no, così no, nel, no, nel dubbio, come è solito fare l'onorevole, no? Dai, c'è Peter che è tornato. Peter da Parpo. Sì, buongiorno, oh, signor man. Milan, buongiorno signora Gentili. Salve Peter. Saluto tutti, diciamo, e ringrazio sempre per l'ospitalità di Radio 24, così per dare un tocco internazionale. E diciamo che da noi non succede niente, però adesso anche da noi ci sono le elezioni amministrative lì a Parpo. Sì, sì. Parpo. E allora sono presentate alcune liste che sono tutte liste civiche, che però si ispirano alle liste nazionali. Per esempio c'è la lista civica per Matteo Renzi che si chiama lista tutto e niente, purché possa portare i voti, e devo dire che però ha lavorato bene, perché da noi c'erano due disoccupati in paese, uno ha trovato lavoro, hanno detto che la disoccupazione è calata del 50%. Effettivamente la statistica, la statistica. Se ne sono attribuiti il merito. Poi c'è la lista che si ispira a Matteo Salvini, solo che siccome lì da noi praticamente non ci sono extracomunitari, i leghisti in paese non sanno su cosa fare la campagna elettorale. Non possono dire tornate a casa vostra perché da noi non ce ne sono. Perciò praticamente la lista ispirata alla Lega non ha programma. Sono lì che manifestano per strada, dicono basta, basta, basta, basta. Poi gli vai a chiedere basta cosa, loro dicono non sanno cosa dire. Tornano a casa un po' amareggiati perché non hanno programma. Poi c'è la lista che si ispira a Silvio Berlusconi, si ritrovano tutti nel centro estetico di Parpo, stanno lì a discutere, dicono che sono liberali, poi qualcuno racconta una barzelletta, vanno a casa. Poi c'è, per finire, la lista che si ispira ai 5 Stelle, che però non sanno cosa fare perché da noi non c'è il wifi, non c'è la rete. Allora hanno fatto un movimento 5 Stelle senza rete, che comunicano wifi gridando da una finestra all'altra. È un wifi. Questo è loro. E siccome bello vogliono questo. Dimostrare di essere una forza di governo responsabile, ma da noi non ci sono reliquie da baciare, come ha fatto Di Maio col sangue di San Gennaro, ecco, i pentastellati di Parpo vanno in giro a baciare le reliquie importanti al nostro paese. Siccome ci sono molti muratori, vanno in giro a baciare i vecchi mattoni e così via praticamente. Allora, siccome si è capito che non si può votare sulla base di programmi che non ci sono, si è deciso per eleggere il sindaco di fare una corsa coi sacchi, che tanto abbiamo capito che la politica ormai serve a poco. Si prendono dei sacchi di juta con allegria, perché come dice il proverbio, gente allegra c'è l'aiuta, e si fa la corsa, no? Quello che vince, il più atletico, quello che si impegna di più, ha il diritto di diventare sindaco. Giusto. Così almeno se c'è anche una mano da dare, qualche lavoro da fare, diciamo che fisicamente è il più adatto. E siccome mi sembra che sia un programma buono da proporre anche a livello nazionale, sono venuto qui a proporlo a Radio 24, elezione del Presidente del Consiglio con i sacchi di juta. Però, grazie. Grazie Peter. Vi ringrazio per aver esposto questa mia teoria che vorrei sviluppare. Idea. Sai mai che magari qualcuno la prende sul serio? E... sì, naturalmente. Invito anche tutti a venirci a trovare a Parpo. Però vedo Gentiloni proprio lì. Gentiloni è sì, sì, viene lì. Da noi non succede mai niente a Parpo. Quando c'è un funerale è già un'occasione di svago. Che bello. Infatti bello. L'agenzia di pompe funebri come slogan sulla sua porta ha fatto scrivere morendo fai vivere la tua città. Oh. Caro Peter, veniamo tutti a Parpo appena possibile. Ci ha motivato molto, sì. Sì, sì, sì. Allora, guarda cara Veronica, ci sono gli ascoltatori, c'è Vincenzo da Napoli che ci chiama. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. La signora Gentili ha una voce bellissima per radio, però è stata un po', come dire, cattivella con i napoletani. No, ma come? Che ha detto? Lei che ha usato una parola anomala nella classifica di Napoli. Poteva dire, non so... Speranza, forse. No, guardi, io sono un'appassionata di Napoli e una grande fan, anzi, vengo sgridata perché ne difendo anche i difetti sempre troppo, per cui in realtà ho cercato di non essere eccessivamente pro Napoli. Adesso lo faccio io lo scorretto, ma ha detto anomala perché in genere gli altri anni le classifiche stava sempre in testa. Ho evitato di iniziare la polemica con Alessandro, era solo questo. Però Vincenzo si è arrabbiato tanto, ma facciamo sentire un po' la voce di Veronica Gentili così si rasserena. Allora io posso parlare? Dire cose a vanvera. Vabbè, no, Vincenzo, sei arrabbiato così tanto? No, arrabbiato no. Però ecco, io sono come il signor Milan. Napoli non ho mai avuto problemi, non sono mai stato rapinato, per fortuna. Quindi sono tra quelli forse fortunati, diciamo così. Beh, sì, sicuramente. No, ma in realtà anche a me non è mai successo di avere furti a Napoli. Diciamo, anzi, è statisticamente più probabile che succeda a Napoli o a Milano che a Ravenna. Questo almeno dicono. Più che altro sappiamo che nei luoghi comuni anche. Statistiche e luoghi comuni si sa la storia del Rolex è un evergreen, no? Fate attenzione, non mettere il braccio fuori dal finestrino, tutte storie che poi io che non so quanto però. Siano Beh, appunto succedono. Guarda cara Veronica, ci ha anche chiamato, abbiamo 30 secondi, ogni tanto ci vuol salutare Anacleto. Sì, no! Sì, Anacleto. Anacleto, cosa vuoi Anacleto da noi? Anacleto, che gioia, che vuoi da buongiorno noi? A tutti. Buongiorno. Sei in pensione, ti annoi e quindi come ci ascolti? Come stai? Niente, sto bene, però la trasmissione è un po' troppo lenta. Maria, se sei un uomo da erba, cioè serve il voli, servizio sotto rete, stai troppo nel contraddittorio. A Wimbledon. Lui mi chiama, lui mi chiama Maria. Dimmi Anacleto, vai, ma ingiuriami un po', Maria. Anacleto, no. Come solo tu sai fare. No, io e parli troppo, Dio buono, sei troppo zitto. Brava. Noi qua siamo contadini dalle mie parti, ma no, ogni tanto può sentire la trasmissione a qualcheduno qui, ma chi è questa fenomena? Io è una, per l'amor di Dio, lasciamo la scusa, perdere. Anacleto, di Leonardo Manera che cosa ci dice? Perché tu ci segui da anni, ma Leonardo Manera? Leonardo è un comico fatto alla sua maniera, noi toscani per i comici siamo un po' particolari, capito? Ho capito che diciamo non è un complimento, diciamo così. Bravo. Oggi hai telefonato per fare complimenti a tutti, Anacleto. No. Vuoi fare complimenti a tutta la redazione, a Lorenzo Nespoli, a Peter Biscapè, a Elisa Pagani. Anacleto è un ragazzaccio, si sa che è fatto così. Ma a maniera no, Anacleto. Dai, senti, ma quando